Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica da Gegè Telesforo, questo è il sound check, la prova del suono, il suono della musica di Radio 24. Buonasera a tutti voi, buonasera a Silvia Barba e Francesco Tromba. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Buonasera Tromba, come va? Bene, bene. Tu sì. Come stai? Abbastanza bene. Sai che ho parlato con mio padre? Che ti ha detto? Con papà? Mi ha chiamato e mi ha detto di fare i complimenti a Silvia. Ah, mi associo ai complimenti. Sul serio lo dico. Grazie. E poi mi ha detto, ha aggiunto una cosa. No, mi ha detto, Silvia Barba mi piace molto, mi piace proprio come parla, quello che dice. Ha detto, beh, ma pure Tromba ho fatto io, è forte, no? Un ragazzo preparato. Sì, ma sai che c'è, Tromba è un po' polemico e anche un po' prolisso a volte. Purtroppo è nella mia natura. È vero? Sì. Sei fatto così. Sono però, molto polemico spesso. Però lo ha detto, no, però è un bravo ragazzo. Mi ricordo a Natale, è stato così carino con me. No? Allora, io intanto ho organizzato una playlist, anche pensando a papà e pensando agli appassionati di jazz che ci stanno scrivendo. Molti. In molti, e mi chiedono, ma perché non torni a proporre quel bellissimo sound che ci proponevi nelle passate stagioni? Lo faccio, ecco, basta chiedere e siamo pronti per farlo, va bene? È una bellissima puntata. Bellissima puntata, perché? Perché chi apre la nostra puntata? Niente meno che Nat King Cole. Nat King Cole, la classe in persona, e approfitto proprio perché è stato pubblicato da poco un cofanetto intitolato The Essential Nat King Cole. Ci sono ben 3 CD, e quindi 3 CD, siccome allora non facevano come oggi che registrano un brano di 7, 8, 9, 10 minuti, ma le composizioni duravano 2 minuti, 2 minuti e 15, 3 minuti e qualcosa, massimo 4 minuti, in 3 CD ci sono praticamente 60 brani, 60 capolavori registrati da Nat King Cole nell'arco della sua incredibile carriera. E tra l'altro molto ben fatto, perché i 3 CD sono divisi in questo modo, quindi ci sono tutti i brani, quelli proprio del periodo swing, quindi The Swinger, le ballad di Nat King Cole per gli innamorati, quindi Silvia, quando tu incontrerai, insomma, per quei momenti puoi utilizzare certamente le ballad di Nat King Cole, e invece per Tromba, che ama divertirsi ballando sui tavoli con la sua fidanzata, consiglio il CD numero 3, ovvero Cole Sings in Spanish, perché Nat King Cole ha avuto anche una carriera meravigliosa nell'ambiente latino, cantando e interpretando con la sua voce meravigliosa i classici della canzone latina, cubana, messicana e via dicendo. Quindi veramente un The Essential Nat King Cole, io lo raccomando a tutti. E sapete perché lo raccomando? Perché? Perché è un disco moderno, è un disco dal quale viene fuori l'eleganza, viene fuori lo swing. Questo signore entrava in studio di registrazione e cantava alla prima, non c'erano trucchi o barbatrucchi in studio di registrazione, si accendeva il microfono e lui partiva, eccolo qui, il disco era fatto, anche perché poi con lui c'erano musicisti di prima classe. E c'erano anche le sigarette al mentolo. Ecco, e infatti puoi notare, guarda che bella proprio la copertina, no? Di Essential Nat King Cole, guarda che c'è lui al pianoforte in t-shirt, mai visto Nat King Cole in t-shirt, sempre con abiti in smoking, e poi subito qui in primo piano c'è il posacenere pieno di sigarette al mentolo. Ti prego Silvia, guarda, perché lui, Tromba lo ha raccontato più volte, aveva come segreto per la sua voce proprio il fatto di fumare tante sigarette al mentolo. Infatti poi c'è anche un po'... Poi è morto, è rimasto secco. C'è rimasto secco. Nat King Cole al sound check di Radio 24, Let There Be Love. Let there be love. Sì, possiamo affermarlo tranquillamente, la classe in persona, la classe di Nat King Cole con Let There Be Love, approfittando della pubblicazione di questo The Essential. Nat King Cole 3 CD, guarda che bella confezione. Guarda, andrò a comprarlo, tra l'altro perché nel booklet ci sono tutte le copertine degli album da cui sono tratti questi brani e quindi la raccolta completa, c'è la sua storia, ci sono appunto bellissime fotografie, insomma è un pezzo di storia del jazz che va conosciuta e sempre approfondita. Nat King Cole uno se lo ricorda solo per quei brani famosissimi che poi l'hanno reso celebre, eccetera, ma secondo la produzione tipo è ricchissima. Unforgettable, no? Esatto, Route 66, esatto, che naturalmente sono presenti nel però chissà quanti altri standards che no, ci sono delle cose bellissime. Guarda, io sono 2 settimane che in macchina ho soltanto Nat King Cole, che bello. E mi sento molto meglio, tromba. Sì, in effetti non si ascolta per niente in radio, non viene ricordato quasi mai. Sto notando però che tantissimi giovani artisti stanno riconsiderando Nat King Cole. L'hanno scoperto e si ispirano, molti dicono di ispirarsi a lui, come ad esempio Quobs, anche degli artisti che non vengono proprio, diciamo, dal suo underground. Io un paio di mesi fa sono stato a Parigi per un concerto e ho incontrato Sacha Vasandani, che si esibiva a Duke de Lombard insieme a Taylor Hexty, pianista eccezionale, e Sachal mi ha detto che stava proprio lavorando con Taylor a un album nuovo tributo a Nat King Cole, e infatti il concerto che hanno fatto a Parigi era proprio, diciamo, quasi una prova per lo studio di registrazione, perché poi rientravano a New York per lavorare su questo tipo di album. Direi di tornare ad ascoltare Nat King Cole con Don't Let It Go To Your Head e poi naturalmente un classico del suo repertorio come Candy, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Once in a While, che melodia, una melodia che poi fu portata al successo proprio da Nat King Cole in una versione bellissima con impianto orchestrale, con archi e l'impianto classico proprio delle canzoni di una volta. Questa però la versione strumentale proposta da un meraviglioso musicista come Chet Baker, 1955, proprio brano tratto dal periodo parigino, Chet Baker in Paris, qui al Soundcheck di Radio 24. Splendida melodia, quella di Once in a While. Abbiamo dato il via al soundcheck con Nat King Cole per approdare a un altro campione di classe, musicalmente parlando, come Chet Baker, che però nella vita era un diavolo. È stata più volte raccontata la sua vita in libri, anche libri fotografici, in film, un film bellissimo come Let's Get Lost di Bruce Weber. Come vedi, cara Silvia, c'è proprio il poster lì del film di Bruce Weber con Chet Baker, perché Bruce Weber venne a presentare il disco quando si faceva doc in televisione e c'era anche Chet Baker. Qualche mese prima, poi però fece la fine che ha fatto. E ultimamente, un anno fa a New York, abbiamo visto anche il film dedicato a Chet Baker con chi era l'attore? Ethan Hawke. Sì. Il film si intitola Born to be Blue. L'hai visto, tromba? Sì, l'ho visto di recente in lingua originale, molto bello. Ethan Hawke è fantastico, bravissimo. Sì, veramente bravissimo. Poi anche Carmen Yogo, che fa la sua compagna nel film, è molto brava, oltre che molto bella. Ovviamente parla del periodo in realtà peggiore di Chet Baker, cioè quando deve riprendere a suonare dopo che gli hanno distrutto i denti. Purtroppo, diciamo, mette molta tristezza quel film, però è fatto molto bene. Sì, molta tristezza perché finisce male, no? Non ha un lieto fine. Sì, finisce malissimo. La storia di questo eccellente musicista che viene recuperato proprio dall'amore della fidanzata, mette una protesi ai denti, quindi deve abituare il labbro a lavorare nuovamente con dei denti finti, finalmente ricomincia a suonare, lo fa alla grande e quando si ritrova per il, praticamente, come dire, il rilancio della sua carriera con un concerto a New York, prima di salire sul palco che cosa fa? Ci ricasca. Ecco qui. Allora, Bevan Bips è il brano bellissimo che vi facciamo ascoltare, tratto da un album capolavoro del 1966 intitolato Groovin' with Chet Baker Quintet, con lui George Coleman al tenore che sassofonista, Kirk Lightsey al pianoforte, Herman Wright al contrabbasso, Roy Brooks alla batteria. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. When I marry sweet Lorraine. Ma è bellissimo il jazz, no? Si passa da un artista a un altro, da un'epoca a un'altra con grandissima facilità quando si parla di qualità. E questo signore era Till Bronner con la sua tromba ma anche la sua voce. Ecco, abbiamo suonato non a caso Sweet Lorraine perché ci riporta all'inizio della puntata, perché Sweet Lorraine è stato uno dei capolavori, certo, interpretati da Nat King Cole, e qui con la sua voce, questo album intitolato The Good Life, Till Bronner fa il filo, insomma, verso, ma direi un tributo a Chet Baker. Beh, lo omaggia proprio perché Chet Baker è ricordato sì come trombettista, ma appunto anche come un dolcissimo, melodicissimo e assolutamente molto emozionante. Quando si parla di Chet come Baker, cantante, come cantante e anche che improvvisatore vocale, faceva scatter, era bestiale. E tra l'altro nella semplicità, come dire, sembrava gli riusciva tutto molto facile. E in questo album dove appunto Till Bronner, questo famosissimo in Germania trombettista e cantante appunto tedesco, è al 17° album, è un omaggio a tutti gli standard che lui nella sua carriera ha suonato, più due inediti, e canta molto elegantemente, e lo fa proprio perché, come dire, l'esempio, se vogliamo, di Chet Baker è anche molto dichiarato, perché comunque l'esempio più importante. Assolutamente, questo è un album recente, anzi è stato pubblicato qualche mese fa per la Hokie, quindi approda alla Sony Music il signor Till Bronner. E per fare questo salto si reca a Los Angeles in uno studio bellissimo, convoca dei campioni di jazz, due veterani come Jeff Hamilton alla batteria, John Clayton al contrabbasso, che è anche il produttore artistico del progetto, musicisti che hanno fatto la storia del jazz, tra l'altro sono stati la sezione ritmica di Diana Krall per anni. John Clayton è il papà di Gerald Clayton, e come no, pianista fra i migliori della nuova generazione, e poi a completare l'organico il chitarrista Anthony Wilson e il formidabile Larry Goldings al pianoforte. Till Bronner chiude il soundcheck di questa sera con The Good Life, brano che dà il titolo a questo album. Ve lo raccomandiamo noi del soundcheck e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sabato prossimo alle 19:15, ma mercoledì con il signor Tromba siamo presenti in Variazioni su tema su Rai 5. Sì, parleremo della radio, sarà una puntata dedicata alla radio. È vero, in televisione. È vero, e infatti voglio ringraziare anche Luca Barbarossa, siamo andati nello studio di Radio 2 a disturbarlo per parlare di radio, ma anche già Maurizio Foderaro, che ha un incarico importante in Rai perché è proprio lui che opera sul marketing di Radio Rai. Insomma, siamo andati a trovare degli amici e abbiamo parlato di radio con loro. A tutti voi buona serata. Buona serata a tutti. Ciao.